La soglia. Occorre fare delle precise scelte personali, nella consapevolezza che io stessa sono il primo luogo politico su cui agire per iniziare il cambiamento, per avviarsi verso quell'utopia e attrarla verso il presente. Non sarò credibile e non avrò una base temprata per reggere le pulsioni del cambiamento se lo esigo soltanto dall'esterno, senza verificare le strutture nelle quali mi riconosco e mi definisco sul livello emotivo e spirituale. Altrimenti può accadere che bellissimi progetti, ideati da persone anche molto motivate, di colpo esplodano per attriti improvvisi che sembrano arrivare di sorpresa e riversarsi inaspettatamente sulle partecipanti e sulle loro idee stesse, seminando confusione e tanto dispiacere. È successo in alcune comunità di convivenza negli anni 70 del secolo scorso, quando la critica al sistema era rivolta solo verso l'esterno, e succede ancora oggi nei tentativi di collaborazione, di progetti, di convivenze. È l'effetto della richiesta di cambiamento rivolta all'esterno quando non trova rispondenza nei nuclei centrali da cui nasce il vortice del progetto, le persone coinvolte. Ecco la vegliarda sulla soglia. Custodisce l'entrata verso l'altra qualità d'essere, sorveglia il passo del cambiamento. Occorre comporre con cura il tributo da offrire sulla soglia. In base al tuo tributo, la vecchia decide se farti passare o meno, se farti da guida nel nuovo paesaggio indicandoti i sentieri, i luoghi di raduno, le occasioni di festa, musica e danza, accompagnandoti dalle maestre e dalle compagne ricercatrici, o se rimandarti indietro con il suo ghigno sagace, finché non avverte la brama vibrante in ciascuna delle tue cellule, la disponibilità a morire e rinascere, il desiderio nitido e rovente di realizzare altro, cominciando da te stessa, non ti farà passare. Finché non arrivi con il coraggio che sorge dalla necessità di una nuova visione, che osa sfatare gli schemi sfavorevoli al fiorire della potenza femminile, e con l'acume che permette di scrutare oltre le simbologie apparenti e le storie in cui bisogna credere, non oltrepasserai la soglia. Il tributo può essere l'offerta della paura, della vergogna, della paura e della vergogna. Può essere la consegna del tuo credo nelle illusioni, della tua disponibilità a farti imprigionare, imbrogliare, a non crederti, a negare la tua realtà inconfondibile e autentica. Uno strumento utile per costruire l'alternativa, farla uscire dalla sua collocazione utopica e promuovere il suo arrivo è stipulare un elenco dei propri diritti. Quella che segue può essere considerata una traccia da completare o modificare seguendo i propri impulsi. I miei diritti. Ho il diritto di essere divina e di sviluppare la capacità di riconoscere l'essenza divina in qualsiasi manifestazione di vita. Ho il diritto di rivolgermi a realtà altre per essere nutrita e sostenuta, di abbandonarmi all'abbraccio dell'orsa, farmi smembrare dalla saggezza delle vegliarde guardiane di altre dimensioni per rinascere integra e completa. Ho il diritto di fare e di disfare, di sapere e di non sapere, di procedere e sostare, di conoscere e ignorare. Ho il diritto di scegliere le mie condizioni di vita e con chi mettermi in cammino. Ho il diritto di essere diversa e di non aderire ai ruoli proposti alle donne nell'epoca attuale. Ho il diritto di oltrepassare. Ho il diritto di splendere, brillare, essere raggiante. Ho il diritto di seguire l'essenza e non farmi ingannare dalle illusioni. Ho il diritto di osservare il desiderio del mio cuore. Ho il diritto di ballare sulla soglia, fra il formato e il non formato, ridimensionando l'importanza personale. Ho il diritto di distinguermi e di comprendermi come parte di un contesto magnifico e ampio, di cui sono contemporaneamente particella minuscola e artefice responsabile. Ho il diritto di attraversare le attuali leggi della fisica e approdare al miracolo. Ho il diritto all'estasi, all'esplorazione della mia espressione sensuale e sessuale. Ho il diritto di annientarmi nello spazio vuoto dell'esistenza. Ho il diritto di vivere in dignità. Ho il diritto di modificare le mie condizioni di vita per per connettermi con uno stato dell'essere in cui la domanda sul senso della vita diventi obsoleta. Con 10 rivedo e rivado. Cenerentola discerne. Impulsi prioritari. Come illustra l'antropologa Michela Zucca nei suoi studi sulle società montane, il movente per decisioni come la scelta di un luogo per l'insediamento, la costruzione di edifici o la direzione delle migrazioni non dipende dalla valutazione della comodità o della ricchezza di un territorio, ma è basata piuttosto sulla convinzione spirituale e la sua risonanza nel paesaggio. Siamo abituati a considerarci immuni e non suggestionabili dalla religione vigente, soprattutto se ci collochiamo in ambienti di sinistra o femministi. Invece è da considerare che le convinzioni dell'ambito sociale e culturale che ci circonda attraversano e colorano il nostro essere e sentire, pensare e agire e plasmano le nostre idee fondamentali riguardo alla percezione di noi stesse e del mondo. Nell'immaginario della nostra epoca, una spiritualità non religiosa, cioè non rappresentata da un'istituzione gerarchica e monopolistica, è associata a etnie lontane da noi, sia per distanza spaziale e temporale che per facoltà intellettive. Abbiamo imparato che quel tipo di spiritualità, che può essere effettuata un po' da chiunque e quindi anche dalle donne, appartiene a culture meno sviluppate che non capiscono tante cose quante noi, evoluti, bianchi, civilizzati, maschi. Con questa convinzione si è creato, oltre al disprezzo, un approccio gerarchico e duale a qualunque mondo non materiale, guidato dall'interesse per il potere e dalla volontà di sottomettere. Di conseguenza è maturato un senso di disagio e incomprensione nel contatto con i mondi non materiali e i loro rappresentanti, una totale mancanza di coltivazione da parte nostra. Il sincero e ingenuo desiderio di stabilire quel contatto che superi gli stretti limiti dell'essere umano, recintato nella sua incarnazione materiale, se veicolato dalle regole del gioco dell'attuale religione politica, e cioè gerarchiche e non aperte alla diversità, può provocare delle ripercussioni anche importanti sulla psiche e sul benessere. Con le confusioni che si possono creare, non soltanto viene distorto il quadro e gli eventuali messaggi e richieste dal mondo spirituale, ma chi si avventura senza avere qualche indicazione pratica e semplice può anche mettersi in serio pericolo. Rimasugli fuorvianti. È la completezza dell'esistenza, la rilassatezza nell'essere integre e connesse che ci renderà pronte a gestire la conflittualità in modo amorevole e ad accogliere il suo dono implicito. Con i paragrafi che seguono, propongo di assaporare il contatto con una dimensione transpersonale, in delicatezza e diletto, con acume e in osservanza dei propri limiti. È stato ben meditato in un testo sulla tematica del conflitto fra le donne l'inserimento di un passaggio su una preparazione che dia qualche istruzione sull'immateriale, cioè sulla magia. È proprio questo il lato della nostra identità e della nostra società lasciato nel buio, nel reame segreto della vergogna, del non se ne parla, dello scandalo e del ridicolo, del non serio e non affidabile. È quella parte di cui parli a bassa voce, soltanto con chi hai molta confidenza, con chi sai che conosce quelle strane cose, con colei che ogni tanto, come te, fa dei sogni bizzarri o avverte cose strane, sente le vocine o intravede cose che non dovrebbe vedere. Fedeli a oblii e divieti, abbiamo relegato queste parti in stanze umide e buie e sotterranee e siamo arrivate a credere di essere separate dal tutto, praticando un modello di vita basato sulla scissione. Allora nasce la divisione fra l'esterno e l'interno e la necessità di costruire muri, definire confini per nascondere il segreto del vero essere. Sorge il bisogno di inventare armi per poter difendere e attaccare, la necessità di accumulare beni per placare il profondo senso di povertà e paura che costituisce oggi lo sfondo delle culture occidentali. E abbiamo docilmente imparato a nascondere quelle qualità che sfuggono alla comprensione lineare, con il loro movimento circolare e ciclico, e che possono essere potenti e angoscianti perché la loro provenienza è al di là della logicità abituale. Non potremo fare a meno di riabbracciare questo sapere transpersonale e intuitivo, radicato nell'intelligenza viscerale e in epoche primordiali, se vogliamo arrivare a quell'integrità che ci permetterà di progettare società sane, luminosamente fluide e accoglienti, in cui è possibile semplicemente essere come si è e trasformare i segreti in facoltà al servizio della comunità. Tutto quello che ci sembra di sapere oggi sulla magia è stato trasmesso dai vincitori, che desideravano e desiderano veder soccombere un potere naturale forte, indomabile e inestricabile, che è proprio l'indole umana e soprattutto femminile, e che si nutre della certezza che tutto, piante, animali, stelle e creature umane, sono frutto della stessa materia, dalla stessa luce, dallo stesso respiro vitale. La magia è stata, fino alla sua demonizzazione iniziata nel 1000 d.C., un'arte talmente intrecciata alla normalità quotidiana che non bisognava darle altri nomi. La parola strega esprimeva ed esprime un insieme di opinioni meschine, misogine, maschiliste, mirate a discreditare, demonizzare e annientare un'arte a cui i promotori di tale screditamento non hanno accesso e che minaccia le loro ambizioni onnipotenti. Oggi ci sono delle guaritrici, avventuriere, sagge, praticanti della spiritualità della terra, che rivendicano il termine strega nell'intento di creare continuità con le antenate e rendere visibile una modalità di esistenza e una facoltà non valorizzata nei paradigmi consueti. A ben cercare, neanche esistono termini che descrivano le attività magiche in modo esaustivo ed efficace. Le arti praticate dalle donne comprendevano la medicina, l'erboristeria, l'ostetricia, l'alchimia, l'astrologia, la metafisica, l'arte dell'oracolo. Inoltre includevano le arti dello sciamanesimo, che sono la comunicazione con il non formato, l'invocare, manifestare e guarire tramite il contatto spirituale, le arti dello spostamento di pensieri, oggetti e persone al di là delle leggi fisiche. La parola deriva da shaman, termine siberiano tunguso che indica colui o colei che vede nel buio con gli occhi del cuore. Vicky Nobel sostiene nel suo libro La Dea Doppia che all'origine la parola è solo femminile. Le pratiche magiche venivano tramandate a voce, con cantilene e filastrocche, da donna a donna, da nonna a nipote, da madre a figlia, sussurrate dalle fanciulle o trasmesse dalle sagge sibille. Il festeggiamento delle 8 porte sacre dell'anno era una pratica cardine che permetteva la comprensione profonda della ciclicità della vita attraverso la partecipazione al suo mistero. Non esige scritti e documenti, esperimenti e prove artificiali. L'esperienza personale e spirituale è la sostanza e il documento più credibile in assoluto. Queste usanze viaggiavano sul legame matrilineare a cui gli uomini non avevano accesso. Nel desiderio di accedere alla magia, potevano soltanto indovinare o inventare, riconoscendone involontariamente il sacro potere. Tutta la loro divulgazione, che ci viene offerta in modo scritto e storico, andrebbe quindi valutata con cautela. Conviene ora provare a ridefinire il termine magia. Magia può essere chiamata ciò che va oltre a quello che viene considerato possibile all'interno degli accordi sulle leggi fisiche e sui paradigmi culturali. Le tecnologie odierne avrebbero suscitato considerevole sgomento, angoscia, ammirazione e senso del miracolo alle nostre sorelle di appena 1000 anni fa, così come a noi spesso risultano enigmatici i templi di Malta e le vie cave etrusche. La magia è l'atto della comunicazione con fenomeni a cui riconosco una loro vitalità autonoma. Un albero, una pietra, un animale, una stella, l'atomo stesso, le manifestazioni non fisiche. Implica il diritto di esercitarla e un profondo e umile riconoscimento della sacralità di tutto l'essere, la consapevolezza che tutto è connesso, e che tutto l'agire si equilibra in una legge cosmica che va oltre le mie abituali possibilità di comprensione. Piramidi fraintese. Nell'ottica gerarchica che si è creata nel percorso patriarcale, identificabile in tutti gli ambiti della vita odierna, spesso l'unico approccio accessibile per gestire fenomeni non materiali sembra essere quello di collezionare seguaci, di sovrastare ed esigere obbedienza. Specularmente, quindi, la percezione di presenze può essere compresa e interpretata soltanto come richiesta di sottomissione, ma è una modalità che può creare parecchi danni. La magia è un approccio alla vita che dona abbondanza e benessere, non può essere che orizzontale. La dittatura e la gerarchia non esistono nel legame gioiosamente umile e responsabile che si stabilisce con la comunicazione fra pari, amanti della vita stessa. In quest'ottica, la distinzione tra magia bianca e nera non è sostenibile per chi ha assaggiato l'imprescindibilità di tutto l'esistente. Volere il male di qualcun altro sarebbe come nuocere a se stessi intenzionalmente. Senza dubbio esistono altri strumenti per risolvere eventuali contrasti o ostacoli. Nelle storie fantastiche del grande schermo o nelle trilogie di fantascienza che si ispirano alla magia, vediamo spesso la riproposizione di schemi interiorizzati. Si ripercorre instancabilmente la dualità bene-male, la necessità di lottare per sopravvivere, la paura di essere attaccati e sopraffatti. È ora di ritrovare dignità e fluidità nell'ammettere che l'uomo non è l'unico abitante di questo splendido pianeta, né il livello materiale è l'unica espressione della vita. Usciremo da questo isolamento culturale con grande sollievo, liberate e liberati da un imprigionamento durato millenni. Avverranno riconciliazioni emozionanti e consolazioni colme di una grinta capace di costruire il futuro sulle basi di un valido presente. Invito quindi a rivedere le opinioni comuni sulla magia e a considerare le sue caratteristiche luminose e altamente intelligenti, lasciando che il disprezzo nei suoi confronti si dissolva con l'esame sincero. L'approccio istruito alla magia alimenta una spiritualità autentica e benevola per tutta l'esistenza. Con 11 oso il tocco, il rinnovo ciclico. Contatto, il rimedio universale. Essere in contatto è quello che fa la differenza con il sistema patriarcale che, definendo il mondo un qualcos'altro di cui non si è parte, è di conseguenza sempre in preda a scarsità e paura. Nell'essere in contatto riconosco la qualità unica del mio universo e contemporaneamente l'infinita diversità delle altre realtà esistenti. Essere in contatto è la condizione in cui è possibile creare e coltivare l'humus interiore e condiviso, e far crescere i fiori di una cultura al femminile, nutriente, gioiosa e divertente. Percepirsi in collegamento previene l'isolamento e la disperazione che ci rende gestibili e dipendenti. Fa sbiadire il senso di inutilità e impotenza e rende obsoleto interrogarsi sul senso della vita. Possiamo allargare i sensi verso quello che si trova oltre i limiti dell'io, del piccolo universo materiale, verso il miracolo e la bellezza. Possiamo comunicare e percepire la nostra responsabilità per il benessere del tutto. Scoprire i tanti livelli delle espressioni vitali permette di chiacchierare con gli elfi e le fate, cospirare con gli gnomi e le gnome, volare con l'aquila, sentirsi accompagnata dai lupi, o meglio dalle lupe, affondare nell'abbraccio dell'orsa. In situazioni di difficoltà consente di evocare le dee volanti, le tibetane Dakini, l'etrusca Vant, gli angeli. Viaggiare sul filo del collegamento, altro che scopa, verso le viscere della terra e la limpidezza del cosmo. Chiedere sostegno in cambio di un canto ci può dare la forza di affrontare situazioni che sembrano sopraffarci, esplorando chi è disponibile ad accompagnarci e da quale sapere si può attingere. La piccola cerimonia o rito spontaneo favorisce, attraverso l'offerta di doni, con una rappresentazione fisica e l'offerta della propria sincera inclinazione, il legame con entità immateriali e antenate per assicurarci il loro sostegno. Riscoprire la giocoliera magica ci fa manovrare con destrezza e diletto altre realtà oltre a quella materiale. Fa sì che ci completiamo con gli aspetti energetici e immateriali per ricordare la nostra provenienza divina, l'essenza di luce, e poterla riconoscere in ogni espressione vitale. Generi generici. È indispensabile fermarsi un momento sulle qualità che distinguono, nell'approccio al sacro e nel contatto con l'essenza dell'essere, le sfere del femminile e del maschile. Raramente viene contemplato il fatto che, tranne una piccolissima nicchia, le proposte spirituali all'interno delle religioni istituzionalizzate vengono offerte e condotte da uomini. Lo stesso vale per quelle alternative, risucchiate in Occidente dal vortice di carenza che si è creato in seguito alla totale eliminazione della spiritualità connessa con la terra. Le pratiche seguono quindi le loro necessità e bisogni e realizzano le potenzialità di un approccio maschile all'essere in contatto. La donna è capace di creare vita, porta in sé la conoscenza diretta della soglia tra il formato e il non formato, lasciando che si materializzi dal suo centro in una qualità circolare un altro corpo vivente. L'uomo, nella sua qualità lineare, necessita di altri esercizi e discipline, altre sfide e avventure per poter sconfinare dallo stato d'animo consueto. Spesso questo desiderio si rispecchia nelle discipline che richiedono un coraggio sovrumano, le sfide più audaci, la spinta a oltrepassare limiti e orizzonti finora sconosciuti. Mi è capitato recentemente di trovarmi in una discussione sulla guerra, in cui veniva esposto il suo lato eccitante, bello, affascinante. Indagando su cos'è in verità questo bello, si veniva a sapere che si trattava della prospettiva di potersi avvicinare ai propri limiti e possibilmente superarli, cioè di allargare l'estensione della propria dimensione psichica. La guerra offre le occasioni di compiere degli atti di coraggio, delle azioni eroiche e di sbirciare nell'oltre sotto l'imminente possibilità della morte, l'elemento che apre il varco per quei reami che nella coscienza normale poco si toccano e che però sono importantissimi per il dispiegamento graduale dell'anima. L'azione di guerra può essere intesa quindi come un'occasione iniziatica al maschile, che colma l'esigenza di passaggi riconosciuti e accompagnati sul cammino, e di momenti di estensione verso una potenza altra e oltre al personale. Questa è un'indispensabile forza nella vita trainante e istruttiva. Considerare questo aspetto della guerra e cercare di creare una cultura che contempli i suoi impulsi di fondo potrebbe essere un contributo per renderla superflua. La mia esperienza come donna e con le donne è che il sapere della ciclicità della vita è sempre presente, indipendentemente se si è sperimentato il parto fisico, e permette alla donna di aprirsi con facilità a dimensioni oltre i limiti sociali consueti, oltre le stratificazioni storiche e culturali. Considerare la differenza dei sessi nelle possibilità di accesso al transpersonale e nella qualità di pratica e di iniziazione è indispensabile per costruire un'autenticità femminile che contempli la situazione reale della donna e la sua diversità anche sul livello spirituale. Vuol dire esaminare bene le proposte a disposizione e verificare la loro compatibilità con i propri desideri profondi e con il bisogno di specchiarsi nella figura di un maestro. Vuol dire permettersi, tramite l'impoteramento di sé e delle altre, di pescare nelle profondità del campo morfico, tirare a galla il sapere sempre presente ed essere creatrici autonome e autoctone di una cultura idonea all'indole femminile, lasciando che confluisca nella nostra incarnazione attuale. dritte sul cammino. Nonostante l'essere in contatto sia quel nostro stato naturale che ci permette di comprenderci quali particelle di un contesto più vasto, spesso non abbiamo più dimestichezza con la sua pratica. Credo quindi sia utile proporre alcune indicazioni. È opportuno assicurarsi attentamente che, con il desiderabile approccio giocoso e leggero alle dimensioni incontrate, invitate o invocate, non venga messa in dubbio la loro realtà. Potrebbe finire con scherzi inaspettati e ammonimenti più severi, come malesseri fisici o emotivi. Conviene rendere onore a quello che si manifesta e concedergli spazio e accoglienza, tempo e attenzione. A renderci poco rispettose è la maleducazione culturale verso la complessità del mondo, dovuta alla cultura dell'isolamento esistenziale che ci vuole, come umani, superiori ad altre manifestazioni materiali. L'approccio, contemporaneamente curioso e incredulo, può metterci a rischio di confusione e di conseguenze poco gradite. Nella nostra cultura, avvertire entità non fisiche può essere associato a malattia mentale o malizia intenzionata, anche se si nota un lento cambiamento in atto. E fuggire da questi sentimenti e percezioni può essere la reazione logica per non sentirsi intrappolate in definizioni negative. Questa fuga però non elimina la causa, anzi mettersela alle spalle invece che averla davanti in modo che diventi affrontabile la potenzia. Può portare a sintomi di persecuzione e panico, a sentirsi ossessionata, all'essere fuori di testa. Per prevenire questo pericolo conviene, invece che negarne l'esistenza, volgersi verso quello che si avverte concedendogli una sua realtà. Di conseguenza ci si può comportare come si farebbe con un ospite, aspettato o inatteso, con cortesia o affetto. Si dice buongiorno e poi si chiede posso offrirti qualcosa? Posso esserti utile? Cosa posso fare per te? Come ti chiami? Da dove vieni? Dopodiché si ascolta e si cerca di venire incontro alle eventuali richieste. Il permesso di percepire e di osservare, indagare sulla qualità e le informazioni della percezione è il passo imprescindibile per entrare in contatto con la percezione autentica, al di là delle solite interpretazioni e opinioni che ci sbarrano la via e la vista. Percepire, vedere, sapere possono servirsi di strumenti sensoriali oltre a quelli a noi consueti. Non vediamo soltanto con gli occhi, non sappiamo soltanto con l'intelletto. Forse nei sogni ci avviciniamo a questo tipo di percezione, nei sogni sappiamo con certezza, senza un motivo logico, percepiamo senza vedere, odoriamo con tutto il corpo. Nel mondo scientifico si sta intanto discutendo se ampliare la catalogazione dei sensi da 5 a 9 o addirittura a 21. Spesso si parla di protezione nel lavoro magico. Sicuramente può essere utile creare un contenitore, come si fa per una buona zuppa, per i vari ingredienti energetici che provvedono alla raccolta interiore e all'intensificazione del lavoro spirituale. Creare invece una delimitazione contro l'esterno è un gesto che appartiene alla legge dell'attacco-difesa e può bloccare anche delle occasioni di apprendimento e crescita. La protezione migliore, oltre ai piccoli trucchi speciali che ci insegna il piccolo popolo, quindi l'invisibilità, lo spostarsi lasciando l'immagine, i fili rossi, i segni protettivi, e la limpidezza dell'anima e l'essere connessa. La magia non si confà a un ego gonfiato. È un atto umile, sereno, a volte giocoso nella sua efficacia, a volte intenso e pieno di sfida. L'incontro con estensioni sconosciute esige esercizio e disciplina, come qualunque altra pratica, e richiede di riconoscere l'eventuale soggezione come espressione dei propri limiti. Sarà delusa quindi chi mira all'aumento dell'importanza personale. È meglio ammettere che c'è una carenza di fondo che suscita la necessità di risultare importante e aprire i confini dell'io per lasciare che con il contatto arrivi l'abbraccio e il nutrimento. Praticare la magia al giorno d'oggi può comportare un impatto forte, dovuto ai condizionamenti storici, sociali e culturali, e dal lato dei livelli non materiali, un grande impeto di contatto. È utile farsi accompagnare da chi ha competenze, da chi sa distinguere e vedere, oltre alle potenziali distorsioni, da chi conosce l'ondeggiare del campo morfico, da chi sa muoversi con agio in luoghi dove per secoli non abbiamo più osato passeggiare. È sconsigliato accedere a proposte sciamaniche che non prevedano un lavoro profondo e sincero di crescita personale. L'arte magica richiede disciplina e disponibilità per non rischiare di rovinare, con l'atteggiamento usa e getta del facile consumo individualista, le possibilità di un contatto che potrebbe essere bellissimo, vitalizzante e divertente.